mia, fiore di melograno. Mi vuoi tanto bene, però mi conviene di stare lontano. Quando dei baci miei senti la nostalgia, guarda nel cielo turchino finché un uccellino tu vedi a passare. L'uccellin che vien dal mare, che viene a dire, che viene a fare, sul tuo balcon verrà a posare un mazzolino di fiori per te. Porta un biglietto nel quale c'è scritto: ti voglio, t'aspetto domani alle tre. Sono deciso con l'animo ansioso, ma il posto preciso indovina dov'è. Quell'uccellin che vien dal mare, il mio pensiero che vola da te. Un biglietto nel quale c'è scritto: ti voglio, t'aspetto domani alle tre. Sono deciso con l'animo ansioso, ma il posto preciso indovina dov'è. Quell'uccellin che vien dal mare, il mio pensiero che vola da te.